Tutto chiaro? Proviamo. C. Ascolta il dialogo e controlla se hai scritto le informazioni giuste. Hai l'orario dei corsi in piscina? Sì, ce l'ho, ma non so quale corso frequentare. Tu quando vai? Il mio corso di acquagym è sempre di mattina. I lunedì e il giovedì dalle 10:30 alle 11:45. È un orario molto comodo. In questi giorni lavoro solo di pomeriggio e di mattina riesco a fare tante cose, anche ad andare in piscina. Infatti, per te è proprio comodo. Io invece devo organizzarmi nella pausa pranzo. Senti, gli istruttori sono bravi? La mia, sì. E guarda, insegna anche durante la pausa pranzo e di pomeriggio. Vedi? I lunedì e il giovedì dalle 13:30 alle 14:45 e il martedì e il venerdì dalle 14:30 alle 15:15. Ci sono molte persone nel tuo gruppo? No, non molte. Il corso che sto frequentando è di mattina, ci sono poche persone, ma so che di pomeriggio c'è tanta gente. Puoi fare una lezione di prova. Non devi fare l'iscrizione. Puoi partecipare ad una lezione per vedere se il corso va bene per te. Veramente? Sì, sì, sono molto gentili. Forse, invece del corso di acquagym, faccio l'abbonamento per il nuoto libero. Così vado in piscina quando voglio. Perché no? Ma qui non ci sono gli orari. C'è scritto, praticabile tutto. Tutti i giorni. Sì, puoi andare sempre. In segreteria ci sono gli orari e i numeri delle corsie riservate esclusivamente al nuoto libero. Sembrano ben organizzati. Quanto costa l'iscrizione? Ogni corso ha un prezzo diverso. Il mio corso è di 8 lezioni e costa 45 euro. Ma quando fai l'iscrizione per 2 corsi, risparmi un po'. Paghi 85 euro per 16 lezioni. Risparmi molto con l'iscrizione a 3 corsi. Paghi 120 euro e puoi frequentare 24 lezioni. Non conosco i prezzi del nuoto libero. Però se fai l'abbonamento per il nuoto libero, non possiamo andare insieme. Peccato. Non so, se invece faccio l'abbonamento al tuo corso di acquagym. Io cambio il mio orario e vengo alla pausa pranzo negli stessi giorni. Vedi, il lunedì e il giovedì dalle 13:30 alle 14:45. Ma a che ora devi essere in ufficio? Alle 15:30. Allora è perfetto. Iniziamo la prossima settimana. Faccio l'iscrizione per 3 mesi. Ma non fai la lezione di prova? Giusto! Aspetto la seconda lezione per fare l'iscrizione.